Non mi puoi raccontare niente dell'aldilà? 9 dicembre. Ero appena sveglia quando venne Caterina e potei rilevare una cosa nuova, che mi fece pensare alla luce elettrica. Nel medesimo istante che lo spirito arriva, il mio proprio essere è come illuminato, un crack nel mio cervello e tutti gli altri miei pensieri spariscono. Il soprannaturale ha una forza avvincente. Purtroppo non ho dolori, mi sarebbe interessato vedere se sparivano anche quelli. Essa mi venne molto vicina e accostò la sua mano alla mia fronte come se volesse farmi una gentilezza. Io, perché sei così cara oggi? Lei, tutto chiaro. Io, dove chiaro? Lei, in mente. Io, che cosa puoi vedere ancora in me? Lei, desiderio. Poi disparve. Dal momento che devo essere sincera, devo dire che proprio ero stata tanto contenta alla Santa Comunione, ma non mi piace scrivere queste cose, mi sembra di entrare in un campo di cose stravaganti. Gianni fu qui, niente di straordinario. Anche il 10 dicembre su per giù lo stesso. 11 dicembre. La nuova ombra venne nuovamente in camera di giorno, durante la notte fu qui Caterina, molto cara. Io, non puoi raccontarmi niente dell'aldilà? No. Io, non ti è permesso? Lei, credi. Io, è come hai creduto? Lei, sì. Allora, dimmi perché non ti vedo, quando ho male? Lei, perché allora tu non hai alcuna forza? Nota. Anche la principessa tanto dimentica di sé subì la stessa cosa che una domanda curiosa premesse alle labbra. La risposta, credi, è un ordine preciso, perché se al posto della fede il mondo colpito dal peccato avesse una conoscenza scientifica, sarebbe tolta agli uomini la libertà. Soltanto la fede rende possibile la libertà di dire sì o no alle verità religiose. Dio tiene lontana dall'uomo qualsiasi costrizione, per questo egli diventa una persona responsabile anche nel male. Poi venne Gianni sempre uguale. 12 dicembre. La nuova ombra stava di nuovo accanto a me, nessuno se ne accorse. Gianni fu qui a lungo, un po' meglio, pare che anche verso la preghiera non abbia più sentimenti così ostili. Allo stesso momento c'era ancora qualche cosa nella mia stanza, forse l'ombra, non riuscii a distinguere nulla, quasi per tutta la notte. Ero tanto stanca che la pregai di andarsene, ed ecco il tremendo gemere e piagnucolare. Allora ritirai la mia richiesta e incominciai di nuovo a pregare. Ho avuto un cattivo pensiero, perché ho invidiato gli altri che possono dormire. 14 dicembre. Li ho visti tutti, gli 11, il cavaliere, l'ombra, Caterina e Gianni, ma non si è parlato. 15 dicembre. Una pessima notte. Sembrava che un grosso uccello continuasse a sbattere contro la finestra. Pensando che le contro le finestre dell'inverno non fossero fermate, mi alzai per vedere. Era tutto in ordine. Nemmeno c'era bufera e vento, ma si vedeva una grande ombra nera e una figura, che mi riempì di terrore, più bestia che uomo. Ne ho avuto una tremenda angoscia e scappai via dalla finestra. Fui molto sollevata quando, dopo, arrivò Caterina. Io, hai visto quella cosa orrenda? Lei, no, ma la tua angosciosa paura. Io, sei sempre qui. Lei, sì. Io, perché non ti vedo? Lei disparve. Il buon Dio mi difenderà da quel mostro. 16 dicembre. C'era di nuovo il solito rumore alla finestra, però non ho visto niente. Caterina rimase a lungo, mentre recitavamo la preghiera che le è cara, si è inginocchiata, poi disse, ti ringrazio. Io, Hai un aspetto del tutto diverso, non devi più espiare? Lei, per me è una gioia. Io, non vieni più. Lei, no. Poi mi venne molto vicina e disse qualche cosa che non capii, come una lingua diversa, disparve. Sono quasi triste di non vederla più. Lei era una difesa per me, perché ho tanta paura dal mostro alla finestra. Quello è completamente diverso da quanto vidi finora. Ho domandato molte cose. Scrivo solo quelle alle quali mi fu risposto. Ho visto il cavaliere e gli 11. L'ombra è in piedi vicino a me, una nuvola nera, devo pregare. Ora dopo 10 minuti è sparito. 17 dicembre. Gianni, il cavaliere e l'ombra. Il frastuono alla finestra era mescolato col temporale, non posso dire niente di preciso. 18 dicembre. Nella cappella dell'ospedale ho visto Suor Edvige, aveva un viso contento. Quando tornai, Gianni stava nella mia stanza. Io, ho appena tanto pregato per te, allora dimmi quello che vuoi ancora. Lui, perdono. Io, hai ucciso tu mio nonno? Lui, provocato, calunniato. Io, ti perdono volentieri, devi soffrire ancora molto? Lui, sì. Io, posso chiederti se eri ammalato o posseduto? Lui, posseduto. Io, da chi? Lui, lo spirito della menzogna. Egli disse tutto questo in tono di pianto e aveva l'espressione di chi chiede misericordia. Sono stata contenta perché finalmente parla. Mi sembra come una ingiustizia, rivelare le colpe delle povere anime come una cattiveria rispetto alla loro fiducia. Obbedienza e amore del prossimo sono un po' in contraddizione dentro di me. Nota. Il parroco Sebastiano Ueser scrive: conosco il vecchio Gianni altrettanto quanto Fritz il pecoraio ed altri. Egli stava di casa di fronte a casa mia e nei giorni della sua alienazione sono spesso andato a trovarlo. Gianni morì circa 50 anni fa. Si mostra ancora oggi l'orifizio dello sparo. Ora egli riconosce di aver provocato il colpo così fatale e risponde alla mia primitiva domanda: se era ammalato di mente, alienato, o se era posseduto, ossesso, risponde di essere stato posseduto dallo spirito della menzogna. Il motivo per cui io avevo fatto e proposto quella domanda è questo, perché io sono dell'idea che una gran parte dei poveri pazzi sono ossessi. Nota personale del traduttore, un medico americano la pensa così di tutti gli ammalati negli ospedali. In tutte le apparizioni io trovo la loro infelicità nel loro comportamento. Purtroppo non sono molto capace né di descrivere, né di disegnare,